Allora, attenzione, canale 10. Hola? Brecco, brecco, brecco! Ora attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Canale 10, canale 10, Hello Gianni. Poi Carlo, ciao, ben sentito, buonasera. Buonasera, sto chiamando da poco fa, non c'era nessuno, adesso si è entrato tu là. Allora Carlo, come andiamo? Casalingo. Oggi è tanto fuori, c'è freddo. A parte l'uscita di stamattina, poi ero a casa. E niente, oggi abbiamo mangiato polenta, c'era freddo e quindi andava bene. Ho fatto il sugo con le salsicce, poi le ho tagliate a fettine, capito? E poi una volta che cuoci la cosa, la polenta, ci metti il sugo con le salsicce in mezzo, il formaggio, un bijou. Ci credo, ci ho pensato anch'io alla polenta, lo sai. No, io ho mangiato gnocchi alla campidanese oggi, però già erano buoni lo stesso. E niente, abbiamo scelto proprio una giornata buona, dai, non siamo potuti fermare manco a parlare fuori perché stava piovendo. Questa mattina mentre stavamo parcheggiando è caduta una donna, io e Tonino l'abbiamo sollevata perché ha sbattuto anche la testa a terra, poveraccio. Povaraccia, ma lei è scivolata con la pioggia che c'era, sì, sicuramente, signora anziana era. E allora, una donna anziana era, avrà avuto 82, 83 anni, secondo me era con la badante, perché aveva lo sportello della macchina aperta, questa ragazza stava cercando di tirarla su ma non ce la faceva, e Torino siamo detto, tu riscendi che c'è caduta una donna, la tiriamo su, ed era in una pozzanghera tutta bagnata, poveraccia, tuia, abbiamo controllato la testa, tagli non ne aveva, però ha sbattuto la testa, ha detto portatela a controllare, non si sa mai che abbia qualche mattoma, qualche cosa. Infatti quando sono anziani colpi così sono a volte anche pericolosi, finché un giovane eccetera, ma quando cadono gli anziani molte volte si fanno anche male, colpi alla testa eccetera, oiaia. E poi perché cadono a peso morto, capito Carlo, cadono a peso morto, poi scivolata all'indietro, capito? Mia moglie stamattina lo stesso mi ha detto, quando è andata a scuola presto, che aveva la prima ora, e dice che ha sentito pom, ed è una ragazzina che come è entrata nell'ingresso era tutto bagnato, che stava piovendo, ha scivolato e ha sbattuto la testa, dice oh, tutti che ridevano, nessuno che si è avvicinato a sollevarla questa ragazzina, a chiedergli come stava, no? Roba da matti. E quando piove così poi un attimo a cadere. Sono imbecilli questi ragazzi di adesso, sono imbecilli proprio, non capiscono che se uno cade si può far male. Sì, perché poi dove ci sono pavimenti lisci, capito, con le scarpe da tennis che usano i ragazzi, è normale che si scivoli. Allora, nell'ingresso magari c'è di quel pavimento ingresso, capito, con la pioggia, secondo che plastica ha il fondo delle scarpe, sai come scivola, è una bellezza. Io niente, prima ero acceso, però ero sceso giù, a dire la verità, in garage, perché avevo staccato il microfono, siccome ho una prolunga, no? E praticamente è un cavo già intestato che avevo ordinato tempo fa da internet. E quindi cosa fai tu? Lo inserisci nella radio e poi il microfono della radio lo colleghi, c'ha lo spinotto tutto a 5 pin eccetera, però praticamente è tutto in acciaio, no? Cromato lo spinotto, tutte le volte che sbatte faceva rumore. Allora cosa ho preso? Di quel nastro nero autoagglomerante e l'ho tutto avvolto, ho fatto un bel lavoretto e così adesso non sbatte più perché è gommato, capito? Poi qualora lo volessi togliere lo posso togliere. Sì, antirumore quello, io l'avevo messo quando ho messo l'antenna nell'altra macchina, avevo messo l'antenna a centro cappotta col buco, però l'avevo tutto bello, diciamo, ho messo tutto il mastice attorno, eccetera, per non arrugginirsi, e poi gli ho messo quel nastro lì che sembra gomma piuma, nastro con la gomma piuma, perché così il filo quando muoveva non faceva rumore, capito? Prego. Giovanni, sì Gianni, aspetta che c'è stato il brecco, mi sembra trovo Giovanni dalla voce. Ciao Claudio, buonasera, ben sentito, a te, a Gianni Doppio Room, buonasera. Gallerie da parte mia, fra due secondi, direzione Olbia, cambio. Ciao Mario, ma ciao, ben sentito, dai, stanco. Dove sei in partenza oggi? Positivo, già partito, dai, sto per entrare in buca, Galliere, prime. Capo. E vediamo se da dove ti ascoltiamo. Cosa c'hai come antenna? La 2001, sempre quella dell'altra volta, Gianni. Quella già va bene, dai. Sei un po' bassino di radio, ma già ti ascolto, dai. Sì, perché c'è un po' di casino nei contatti, cioè i fili che toccano e non toccano, diciamo. L'ho piazzato troppo male. Con i piedi sempre, capito? Nuovo i fili con i piedi. Perché i fili volanti vanno male, va fatto bene l'impianto fisso per sempre, dai. Come ho fatto io, i fili non se ne vedono, tutto nascosto. Ma comunque già ti sentiamo, se sei entrato adesso nelle gallerie, sicuramente quando ne esci. Già chiamerà lui. Cappa. Col camper sei... Ho stanco. Forse è stata la galleria, dai. Ma hai visto le gallerie che belle che le hanno fatte? Sembrava in continente. Hanno messo l'illuminazione nuova, sì. Ma cavolo, sono da un bel po' che ci stanno lavorando in quelle gallerie. Perché io ci sono passato a Natale e sono andato a trovare mia suocera con mia moglie e ho detto ci passiamo da qua, ma ancora ci sono corsie, insomma, a doppio senso, una galleria puoi entrare, l'altra no, a meno che non le abbiano aperte adesso già. Anche io le ho trovate così, ma io sono andato prima di Natale, sono andato a Mulos, a casa di Capridue, quindi le ho trovate così, ma mi ha meravigliato che fossero così luminose, sembrava di essere in continente. Sì, anche l'ho notato anche io quello, che avevano cambiato tutto quanto, poi tutto bello pitturato, visto le pareti, e l'hanno fatta a norma, ci vanno le segnalazioni, gli estintori ogni tanto, capito? E quindi adesso vediamo quando apriranno tutto lì, perché almeno un anno e mezzo che è così. Ci vuole tempo, specie se sono squadre piccole, devono lavorarci, la galleria è anche lunga, tu pensa al continente, qua ci sono quelle gallerie che durano anche 20 minuti, sempre in galleria. Ui. Dunque la funzione è fatta, a centro invece aspetta doppio senso. Ebbene Giova, così almeno quando ripassiamo lo vediamo anche noi, speriamo che aprano tutto lì, perché insomma è uno snodo importante quello, e insomma è come a doppio senso, così sembra un paesino lì tutto ristretto, le corsie sempre intasate, capito? Speriamo che lo aprano tutto. Dove sei arrivato? Al cementificio? Non ti sento in questo momento, non ti sento Giova, adesso rilancio Gianni a vedere se lui ti ha sentito, ma magari sei in zona d'ombra. No, non lo sento manco io. Sicuramente è in zona d'ombra, e poi magari c'è anche 3-4 watt, non c'è un apparecchio che si possa far sentire. Come esce, insomma, che arriva il rifornitore lì di Muros, dovrebbe risentirsi. Dipende sempre da lui, io sento gente che va oltre anche, però con gli impianti in macchina diciamo che si fa sentire. Sì, adesso ha risposto, l'ho sentito. Vai Giovanni, ho capito, perché Gianni è più in basso di me, capito Giovanni? Io sono nella parte un pochettino più alta e quindi probabilmente sentivi me. Gianni, lo senti adesso? Lo sento ma molto basso. Giovanni stanco, avanti. E io adesso già ti sento di più, vai. Ti sento di più. Tu adesso mi ascolti. Ehi, a KK, vai, avanti. Oh, Carlo. Giovaggia, siamo qua, fai tranquillo, poi fai la chiamata, ti sentiamo, l'altra volta ti abbiamo sentito sino a Ploare, poi da lì non ti abbiamo più sentito, comunque fai pure con comodo, riprendi Gianni. Sì, ma io li sento anche oltre, però il problema è che devono avere un buon impianto loro, capito? Io già li ricevo, ma è loro che non ricevono a me. Dipende da sì, l'antenna che ha, capito, come è messa, se ha insomma il ROS a posto oppure tante cose, però dovrebbe essere a posto, magari è che non sta uscendo con tanti watt, capito, per cui è un po' penalizzato. È quello, infatti. Gli avevo scritto un messaggio perché poi con la pioggia ce ne siamo andati di corsa perché non faceva neanche a fermarsi. Io ho detto Tony, tra una cosa e l'altra neanche ringraziato del caffè tio, e quindi ci siamo sentiti poi e niente, dai, ho detto speriamo di un'altra volta che c'è tempo buono, magari ci sediamo con calma pure, ma oggi era a parte la giornata fredda e la pioggia che non ha dato tregua tutta la mattina, era dalla notte che pioveva. Ma tu in entra? In radio non l'ho sentito stasera. Ah, ma hai visto? Hai visto che di prepotenza per pagare? Già l'ho visto, infatti ho detto va, ma mi ha chiamato lui, ha organizzato lui, non ho voluto insistere, alla prossima volta ci penso io. Stavo pagando io, boh. E vabbè. Niente, la prossima volta pagate voi. Va bene, non c'è problema. E cosa ti stavo dicendo, Carlo? Era una giornata troppo brutta, se no ci saremmo fermati 5 minuti a parlare, capito? Esatto, infatti poi stai all'aperto, ti prendi una boccata d'aria, eccetera. Infatti non ho chiesto a Natalino neanche con chi l'ha portato, gli hanno dato un passaggio franco, mi sa. Ehi, era con Franco, era notte da niente quando li abbiamo chiamati, capito? Ho capito, infatti ho detto già sarà stato in macchina, infatti non gliel'ho chiesto, se no gli davo un passaggio io a Natalino. Poi ho visto lì che era con Franco e ho visto si è infilato in macchina e ho detto vabbè, allora sono a posto. Però la pioggia era una cosa fastidiosa stamattina. No, l'abbiamo chiamato noi Carlo e ci ha detto no, non vi preoccupate che sono con Franco e veniamo lì. Che io che ho perso tempo stamattina quando stavo uscendo, prima uno mi ha fermato, poi sono andato all'altro bar in fondo, ti ricordi che una volta ci siamo visti là e pensavo fossimo là, capito? Invece poi ho richiamato e ho detto forse sono all'altro bar, allora infatti poi sono venuto lì. E io te l'ho detto, arrivo al caffè. Ma io i nomi non è che li capito, che li associo molto. Per me il bar del quadrato era lei, è quello lì, e quello era il bar sotto l'ultimo piano, dai, che sopra c'era la pizzeria prima, l'ultimo piano, adesso c'è l'assicurazione, Alleanza Assicurazione, lì ho visto. Non c'è più la pizzeria? No, tutto chiuso, l'hanno chiusa già da un anno, poi ci stavano lavorando, hanno ristrutturato tutto lì e adesso c'è l'assicurazione. Boh, non lo sapevo. Una volta ero andato lì a mangiare la pizza, una volta, però c'era troppo da aspettare, c'era troppa gente, e lavorava a me quello lì. Il locale grande, io ci sono andato forse, guarda, almeno un centinaio di volte, almeno, se non di più, tra qualche festa di compleanno, con i colleghi, molte volte siamo andati lì a mangiarci la pizza, giro pizza, facevano tutte queste cose, ma ci andavo anche con la famiglia quando avevo ospiti, perché era vicino, molte volte qualche sera d'estate, capito, a piedi uscivamo, andavamo a mangiarci la pizza, e la facevano anche buona perché hanno le cose, il forno a legno lì avevano. Oltre a pizzeria poi già facevano qualche primi piatti come si deve, insomma, se volevi prendere un secondo, poi c'erano dolci, un po' di tutto, e lavorava abbastanza bene. Poi non riesco a capire perché abbiano chiuso, infatti io non sapevo cosa avessero aperto, poi ho incontrato uno che abita qua nella mia via. pizzeria, mi ha detto, no, adesso sono lì dove c'era la pizzeria all'ultimo piano, lì adesso c'è la nostra assicurazione. Ah, ho capito, e passaci a trovarmi. Ho detto, a prendere la pizza ci potevo passare lì, ma non a fare assicurazioni, vai già. L'assa verde, ce l'avevo io, l'Alleanza, l'hanno fregato 5.000 euro quando l'ho ritirato. Lascia perdere, mi hanno dato 5.000 euro in meno, vabbè, comunque, l'ho ritirata un paio di mesi prima, perché mi servivano soldi che dovevo farmi, dei lavori denti e cose, praticamente l'ho ritirata un paio di mesi prima, mi hanno fregato 5.000 euro. Sono così, se non rispetti i loro tempi ti fregano sempre, ti dicono lei la sta ritirando prima, per cui non matura questo, non matura quell'altro e poi deve fare questo, quell'altro, insomma poi alla fine ti fottono sempre. Le assicurazioni sono così. Caro, ogni mese veniva a 2,50, poi 3,50, la vita sta cambiando, la valuta sta perdendo valore, quindi bisogna aumentare la polizza, eccetera, eccetera. Siamo arrivati che gli davo 370 euro al mese, ma cosa devo fare? La rata del mutuo, ma stiamo scherzando, lasciami lì. Infatti è così, le assicurazioni bisogna lasciarle perdere. Io lo stesso con la macchina, mi sono andato dove mi avevi detto tu a fare un preventivo ed era quella che mi costava di meno, e infatti adesso quando mi scade l'altra ad aprile faccio pure l'altra là. E io adesso a febbraio la devo fare assicurazione, ma mi è arrivata la bella battosta di luce anche. No, io grazie a Dio le bollette della luce le ho pagate sempre, cioè mi arrivano sempre abbastanza limitate, dai, perché a casa avevo cambiato tutto quanto, tutte le lampadine, cioè non ho più lampadine normali, non ho più tutto LED, dalla lampadina che ho nella cappa della cucina, i bagni, i faretti che ho nello specchio, nel doppio servizio, tutto lampadine a LED, non ho più niente, anche le luci dei terrazzi le ho messe a LED, in cucina, dappertutto, gli abat-jour, e quindi quello comunque ti fa risparmiare parecchio. Poi gli elettrodomestici, quando mi si sono rotti, li ho cambiati, li ho sempre presi con AAA più, e quindi sono quelli di fascia energetica alta, che insomma consumano meno rispetto ad altri, e cerco di usarne il meno possibile. La nostra casa già è anche luminosa, d'inverno qualcosina in più consumiamo, giustamente, perché, capito, la media è di un 35, massimo 40 euro mensili, ogni bimestre mi arrivano 80, 90, ma a volte esagerando pago 110, 120, considera che c'è anche il canone TV in mezzo, io ti sto parlando del totale, però più di quello non pago. 207 euro. Pazza la faccia, evidentemente, ma cosa usi molto, il forno tuo oppure altri elettrodomestici? Ma uso microonde, il forno lo uso la domenica quando facciamo la roba arrosto, se no quasi sempre la roba in tegame. Diciamo che sprechi grossi non è facile, più che altro il televisore deve essere, perché la mia compagna si guarda sempre Maria De Filippi, questo, quell'altro, dopo pranzo, quella lì consuma. Ma non più di tanto, no? Allora l'uso che fai tu, diciamo, del forno è più o meno quello che faccio io, anche io il microonde, il forno è quello tradizionale, elettrico, è che non ho più lo scaldabagno, quello era una mazzata, scaldabagno io ormai saranno forse 15 anni che non ne ho più, l'ho eliminato, eppure avevo fatto il contratto con la Medea, allora, adesso è Gaxa, mi avevano fatto l'impianto tutto gratis, mi avevano messo il contattore del gas fuori dall'esterno, sono saliti col tubo dalla parte del cortile, quindi in facciata principale non c'è niente, la cucina io ce l'ho dietro, per cui mi hanno messo il contattore, lì ho messo di quelle caldaiette a condensazione che mi fa l'acqua calda, l'acqua sanitaria e il gas di cucina, e di gas pago così, massimo 30 euro al mese, capito? Non di più, d'estate ancora anche di meno. E vabbè, più o meno è come mettere una bombola. Ma anche di meno, più che altro è pratico perché non devi stare con la bombola, e ce l'hai sempre, capito? Una volta l'anno vengono a fare la lettura, ti mandano lo stimato, le bollette in base al consumo medio, fanno, però una volta all'anno fanno la lettura effettiva e praticamente ti fanno il conguaglio poi, no? Se hai pagato di più ti rimborsano. Ma non è mai così, di solito devi dare sempre tu. Vabbè. Comunque non capisco perché io massimo ho pagato 170 euro, proprio massimo, se no io pagavo, quando non c'erano stati gli aumenti, pagavo dalle 50 alle 70 euro di luce, poi come ci sono stati gli aumenti è salita a 170, adesso 200, 307 euro, ma non è possibile, noi cerchiamo di fare risparmio, anche di usare la lavatrice per dire dopo le 8, oppure attaccarla solo i giorni di festa, capito? Dipende anche dal contratto che hai, se hai quello con le fasce biorarie, eccetera. Io non avevo scelto quello di contratto perché prima avevo le Enel, poi avevano detto che bisognava cambiare o passare ad Enel Energia, al mercato libero, oppure potevi passare ad Edison o Eni, tutte quelle altre cose lì. Avevo fatto sempre un contratto con Enel Energia, ma almeno 15 anni fa avevo fatto un contratto che si chiama Facile Luce, capito? Ed era un contratto molto molto buono e non lo fanno più adesso, loro più di una volta mi hanno detto lo vuole cambiare il contratto, le facciamo no, lasci quello, già va bene così. E ti ripeto, l'estate a volte mi arrivano 56 euro di bolletta, 70 massimo, capito? Quindi perché d'estate magari accendi meno il forno, anche le luci, insomma, e quindi d'inverno ovviamente c'è consumo, qualche volta qualche stufetta l'accendiamo la mattina presto, se gli altri che c'è freddo, l'impianto di riscaldamento la mattina non lo accendiamo perché comunque poi usciamo per lavoro, io quando sono a casa freddo non ne sento, ma già sta aumentando anche tutto, un po' è aumentato tutto quanto, luce, gas, telefonia, eccetera, senza considerare poi tutto il resto, gasolio, benzina e generi alimentari, tutto sulle tasche nostre già. Ma sbaglio, avevano detto che l'energia elettrica diminuiva come prezzo, avevano detto che l'avrebbero diminuita, o sbaglio? Sì, avevano detto, adesso a vedere se è rientrato Giovanni, a vedere, magari ci stava chiamando. Giovanni, ci sei? Giovanni, dove sei arrivato adesso? Mi ascolti bene? Ma dove c'è incidente? Non ho capito dov'è però. Carlo? Sì Gianni, praticamente stava svoltando per Olbia, capito, sulla quattro corsie, aveva finito la salita lì di Codrongiano, capito, era su quel rettilineo. Ah, ho capito, sì, ho capito. Sì, Gianni. Eppure Olbia, adesso sono da un po' che non ci vado, dai, prima quando ero la lavorava lì a San Teodoro, facevo sempre quella strada lì per andare a prenderlo. Sta cercando di parlare Giovanni, però prova a fare un altro passaggio. Ti ho tirato fuori pio pio, però 1, 2, 3, 4 ho sentito, però molto bassa la radio Giovanni, mettiti qualcosa lì che ti spinge un po' i watt. Ok, ti saluto Giovanni perché poi non so se riusciamo più a tirarti fuori, ti dà un saluto anche Gianni, capito? Lui non lo so se ti sente, vai Gianni. Ehi, ciao Giovanni, ci sentiamo, dai, con tutto buon trabacco, dai, ci sentiamo. Io non lo sento più, Lo sento ma molto basso. Ciao Gianni, penso che tu l'abbia sentito, ti saluto di nuovo anch'io, dai, poi vediamo un po' più avanti, magari se c'è qualche zona favorevole magari proviamo a fare un altro scambio. Lui adesso è con il camper, no? Sì Gianni, lui viaggia con quello, l'altra volta così mi aveva detto, capito? Però lo sentivo molto basso adesso e forse come si è allontanato e facevo fatica anche a sentirlo, si vedeva, poi c'era un po' di QRM, capito? Era a livello del QRM, andava un po' a scatti, capito? Bisognerebbe fargli un bel l'impianto e quel camper. Secondo me non ci ammassa, perché con la turbo 2001 arrivi da tutte le parti, e la bella antenna è come la Mantova. Sì, probabilmente lì se si mette anche qualche whisky in più, capito, preme il pulsantino, poi su quei mezzi lì ne hai di spazio per mettere tutto, capito, e a voglia, si può fare un bel impianto. A voglia, sì. L'unica cosa che hanno quei mesi è trovare la massa per l'antenna, è un po' difficile. Di solito la mettono sempre lateralmente sul parafango del camper, dai. Che forse ha richiamato Giovanni, se lo senti. Vai Giovanni, ci senti ancora? Nuda, ho sentito qualcosa sotto, era propagazione, niente. Sì, ma la massa, guarda, non è difficile, cioè la carrozzeria è tutto massa, se no prendi il capo diretto dalla batteria, buonanotte, e gliela fai così. Quello sì, ma deve avere anche un piano riflettente, capito? Sì, l'ideale sarebbe metterla al centro capota, insomma, o adesso non so come che camper sia il suo, capito? In una posizione dove faccia ben massa. Ma infatti, deve fare massa, perché sennò non rende l'antenna. Guarda, io mi sono meravigliato che con la magnetica vada bene. Con la mia, con la magnetica pompa lo stesso. Anche io la sto usando, io adesso in macchina ho messo l'antenna, quella Alan S9, che già è buona, sino a 300 watt, va da 25 sino a 30 MHz, capito, è alta, flette parecchio, però è sottile, l'asta, e quella è molto meglio, più performante rispetto all'altra che stavo usando prima, quella l'ho messa via perché in effetti è inutile averla. Qualche volta andando al lavoro la tiro fuori, la metto sulla capota e vi sento sino all'aeroporto comunque. Sì, no, la mia tiene 1000 watt, quindi ci puoi attaccare quello che vuoi. 1500 mi pare, non 1000, 1500. Va molto bene come antenna. È grossa, perché è pesante, dovrebbe essere un'antenna per camion quella lì, non per autovettura, però ce n'è un'altra della LEM che è molto più leggera e va bene lo stesso, ce l'ha Fusaro, praticamente c'ha lo stilo che tu lo pieghi, lo giri, tutto quanto e non si tronca, lo puoi girare completamente e farlo a cerchio. Sigla com'è, LEM, non te la ricordi? No, la sigla non me la ricordo, però guarda, c'ha la base che è verde, c'ha delle scritte verdi dalla base, e ce l'ha, poi ne ha due tipi di LEM, due o tre tipi, quindi basta che glielo chiedi, lunga quasi come la mia, però è molto fina e rende bene. Quanto mi resta te la do io? Ce l'hai? Sì che ce l'ho, ce l'ho sino a 2 metri pure. Ah, e che antenna c'hai? La Lende, la Sigma e un'altra ne ho. La Sigma quale c'è? Quella di X? Quella lunga 2 metri, anzi 2 ne ho, una un metro e qualche cosa e l'altra 2 metri. La macchina tu non ne metti mai tu, ciao, buonasera. No, buonasera a tutti e due. No, non ne metto, ce li ho qua in camera, mi ce li ho a portata di mano. Il coso, la base ce l'ho lì a una parte lo stesso. Perché non fa l'opera buona, dai, che la chi la mette in macchina. Se non le usi, cosa ne vai? Per guardartele. No, per coso che ce li ho lì, mi stanno guardando e mi dicono, che hanno insieme a punirli. Mi tieni sempre così. Andiamo che andiamo. No, la devi usare la roba se ce l'hai, se no dopo ci ne muori in chivi. E buonanotte. Avanti di nuovo, Carlo. Ciao, buonasera attore. Sì, mi stavamo parlando di antenne di macchina, ce ne sono, c'è la LEM Mini Turbo che mi sembra bellina, e poi c'è questa LEM Turbo 2001 che è verde, c'è una scritta verde e dovrebbe essere questa, quella di che usa Gianni, la Turbo 2001. Sì, ma la mia è blu. Avranno fatto fatto diversi colori, immagino. Sì, l'hanno fatta anche con la bandiera sarda. Ah, sì, mi sa che l'avevo vista. Sì, l'hanno fatta a diversi colori, in base al colore della macchina. Io l'ho presa blu perché la macchina è nera e ci sta meglio, capito? Verde era un pugnalucci. Ho capito, sì. C'è anche la mini turbo di quelle della Lemme. E io l'ho avuta, la mini turbo l'ho avuta due volte. Solo che quando ci sono palazzi anche quella non rende. Rende su strada lunga, ti dà due segnali in meno di quella grande, già appurato. Sì, ovviamente l'altra è meglio. La mini è allo stilo più corto, quindi è più penalizzata. Comunque, la mia già per adesso mi scruto quella. Quando vedo che non sta andando bene, la cambierò. Sì, perché non deve andare bene. Se va bene adesso, già va bene a fastidini. Io ogni tanto, sai cosa faccio? La pulisco con l'ana d'acciaio, rispulso un po' di CRC sulla lana d'acciaio e glielo passo nello stilo. Poi ripasso lo straccetto, tolgo tutta la roba nera, perché sembra così, ma lo smog c'è. Vedi tutta la roba nera che accumula camminando. Ritolgo quella lì ed è un buon mosso. Già lo credo, sì, se la tiene pulita, ma io già non è che la uso tutti i giorni, capito? Ce l'ho nel portabagagli e ogni tanto andando, ritornando da lavoro, oppure a volte vado anche a Bonorva, eccetera, la uso e la metto sempre, tengo la radio accesa, ogni tanto qualcuno lo becco. A Bonorva ce n'è? No, non è rimasto più nessuno, c'è uno che conosco, un camionista, e ho visto che a casa pure c'è la stazione, però diciamo non è uno di quelli che entra tanto, capito? E c'era un periodo che c'erano una ventina di persone, capito? E c'è anche un radioamatore, aveva il laboratorio, aggiustava televisori, e Gianni si chiama, Gianni di cognome, come faceva, e lui aveva la licenza, proprio la patente, perché era radiotecnico, capito, aveva fatto le industriali, penso, e quindi non aveva fatto neanche l'esame, ce l'aveva per quello, aveva il laboratorio, ci andavo sempre da lui, aggiustava baracchini, di tutto di più. Lui lì a Bonorva, la mia ditta c'aveva il negozio lì a Bonorva, l'entrata, dove c'era il cinema vecchio. Ho capito, sì, già lo so dov'era. Diverse volte sono andato in negozio lì. Adesso l'ultima volta che sono andato era per svoltarlo perché non stavano chiudendo. Non so perché l'abbiano chiuso, però sono andato con il camion per svoltare il negozio e poi dopo quei viaggi lì non ci sono più tornato lì a Bonorva. C'avevo Tinesi, Bonorva qualche volta e andavo a portare la merce. Però di solito facevo Stintino, Platamona, ne avevamo di negozi a voglia. Ma anche tu già ne hai girato, già. E allora ne avevamo due a Stintino, poi c'avevamo Tinesi, Bonorva, poi c'avevamo Santa Teresa, Sorso, ne avevamo quattro, e insomma, su quelli di Sorso li abbiamo tutti chiusi, poi ne abbiamo chiuso due a Porto Torres, e quelli che rendevano meno li abbiamo chiusi tutti. Ho capito. Aggiugabitu. Ore, beh, freddo ne hai lì dalle tue parti. Un po' ce n'è. Ma se faccio un riscaldamento, no, che quindi non intendo. Per me a casa lo stesso, la sera puoi stare anche in maglietta, il problema è fuori già ce n'è di freddo. Stanotte dice che dovrebbe fare freddino, magari dove ha nevicato verso Osilo, quelle zone magari ghiaccia pure stanotte. Io stamattina quando stavo venendo lì al bar, Gianni, ti ho detto, ho visto una macchina tutta piena di neve ed è qualcuno che sicuramente stava scendendo da Osilo perché era fresca e stava piovendo, capito? Quindi se fosse venuto da più lontano la pioggia gliel'avrebbe fatta sciogliere, invece ne aveva un bel. Beh certo, sicuramente sì, sicuramente era Osilo. Perché sì, da ieri mi ha detto che non ce n'era uso, deve essere stanotte che ha nevicato, stamattina. Stamattina ha nevicato, di notte non lo so, però stamattina sì, perché ho visto il servizio a Rai 3 regionale e praticamente il servizio era di stamattina, capito, e non hanno aperto neanche le scuole a Usilo, così hanno detto. Una volta mi è capitata una consegna in un asilo che c'è lì all'entrata di Usilo, poco più su di dove ci sono i campi all'entrata, no, di Bruncuspina. E praticamente sono sceso dal camion, devo portargli della pasta, della roba per l'asilo. Cazzo, si scivolava, non riuscivo a camminare, si scivolava a tutte le parti, non sapevo come fare. Non credo, io ne ho visto di nevicate, perché lì dove c'è il bivio di Bonorva inizia la salita, quando nevicava lì si bloccava tutto il traffico, come scendevano i tir praticamente toccavano i freni e si mettevano tutti di traverso, e prima mi ricordo quando la 131 era senza le protezioni, c'era solo il guardrail, quello piccolino centrale, capito? Molte volte lo buttavano giù lì, e due volte siamo andate ad aiutare, a spingere, che c'era un mio amico che aveva il trattore, capito, di quelli grossi, e quindi con la catena attaccava, iniziava a raddrizzare, con le, mi ricordo la polizia, la stradale, ma quando nevicava lì durava 2 o 3 giorni, perché poi nevicava tutto un giorno, metteva anche 30 cm di neve e poi ghiacciava, e la cosa peggiore era quella. Ma lo sai cosa c'è, Carlo? Che sì che nevica in continente, sono attrezzati, noi non siamo attrezzati per la neve, la buttano in sale, ci sono gli spazzaneve, fanno la viabilità nella strada, capito? Mentre invece qua se nevica, io mi ricordo una volta che ha nevicato lì da Graziella, stavo andando a lavorare, si è girato un camion, cavolo, io me l'ho vista brutta, ho messo la macchina di traverso, ho tirato il freno a mano, cavolo, l'ho fatto andare di traverso, se no mi sbattevo, e mi sono fermato a pochi centimetri dal camion, e poi sai cosa ho fatto? Ho fatto retromarcia, me ne sono ritornato a casa, ho telefonato e gli ho detto che praticamente non faceva a viaggiare, se io mi sfascio la macchina poi è un casino per ricomprarla, loro c'hanno i soldi, se si sfascia ricompra un'altra subito. E domani praticamente dovrebbe piovere di nuovo, almeno domani mattina, stavo guardando un po' il telefonino e così dice, c'è il 74% di possibilità di pioggia, temperature alle 6 del mattino 1 grado, alle 8 del mattino idem, alle 9 inizia a risalire per arrivare massimo a 5-6 gradi e poi scende di nuovo verso sera. Cazzo, allora stamattina ho dovuto portare il cane con la pioggia perché sono tornato a casa. Elena non l'aveva portato perché dice che stava piovendo di rotto, siccome a me vederlo così non mi piace, ho messo il cappuccio e l'ho portato lo stesso, ci siamo bagnati, non ti dico calze e tutto quanto, mi sono bagnato, però almeno l'ho portato poverino, perché e poi sta male, dai, avanti tu. Che ne sei baciato la base mia, Buru, così mi sei portato anche il mio. Mi dice, stamattina quando sono uscito non stava piovendo, ha giocato tutto lo giro, sto portando il cane. Come sono arrivato sotto al portico, ha cominciato a fare Eva, ma Eva però è. Te la sei scampata, e cosa c'è? Paura di crescere di più. Forse a dire tu leva, io guarda non temo né acqua né vento né più già niente, io l'ho sempre portato, poi quando arrivo a casa lo asciugo bene col fondo tutto quanto, lo pulisco e via ed è pronto, cioè non lo lascio bagnato, capito, lo asciugo. No, questo già ci va sotto la pioggia, però se non piove mi porta lui a me e mi dirà vuoi camminare? Purtroppo è così, lo devi portare per forza. Il mio prima, quando era più piccolo, temeva, quando pioveva mi portava verso casa, magari tu non vedevi nulla, vedevi solo nuvoloso, magari c'era un temporale lontananza, loro lo sento, mi portava verso il portone di casa sempre. Adesso già non lo fa più, anche con la pioggia è tranquillo, adesso la cosa che ha cambiato è che teme petardi, e qua vicino a casa non la smettono ancora di bombardare. Anche ieri notte hanno fatto i fuochi d'artificio nella piazzetta che c'è, hanno fatto i fuochi d'artificio, e lui non fa altro che abbaiare perché gli dà fastidio, capito, il rumore. Dillo burano mio, anche il mio è così, se guai se sente petardi comincia a tirare, te si vuoi che camminenni, correndi, se vuoi tornare a casa in fretta. Perché hanno paura, poveracci. Allora una volta mi è capitato una cosa, secondo me è stato scioccato da quello. C'avevo la scaccia a cani e stavo sparando a Capodanno, poi sono andato per conservarla. Non mi sono accorto che c'era il colpo in canna, ha toccato a Peregrinetti, ha sparato vicino a lui, oh, se fosse a tribunare con l'anchi da reddito, la sirigia a bimpiri, si è cagato sotto, poveraccio. Vabbè, comunque, magari ha trovato lo shock da quello. Sicuramente sì. Vabbè ragazzi, io vi devo lasciare, ci risentiamo alle prossime. Ehi Ato, ci ha fatto piacere che sei entrato a salutare, dai. Buone cose, buona continuazione di serata, avanti Carlo. Ciao Tore, quando vuoi, già siamo qua. Buona serata e buon tutto, dai, ci sentiamo alle prossime. Sì, ok, ciao. Ciao, ciao. Avanti Carlo. Ed eccoci qua, Giovanni chissà dove è arrivato adesso, non credo che ci senta più, capito, perché l'altra volta l'ho sentito sino a ploare, capito, e invece questa volta forse anche il brutto tempo è più difficile magari che lo sentiamo oltre quella zona lì. E adesso sarà verso Chirivagno Sieri, quella zona lì, dove c'è il bivio. Lì sono difficili quelle zone con la macchina, se hai una buona antenna con un po' di watt può darsi pure che arrivi. Io da qua molte volte ho parlato con Ozieri, con Luigi, capito? Però poi ce ne siamo passati in SSB, capito? Perché si sentiva meglio, perché magari usi più watt e più silenziosa anche la banda laterale. C'era anche Claudio di Muros, c'era Luigi, insomma Claudio, c'era non mi ricordo Giovanni di Monnannaro, ci parlavo tranquillamente di notte, però d'estate, capito, col bel tempo. Da qua sono arrivato sino all'Isola Rossa parlando, Castelsardo, qualcuno l'ho sentito da Castelsardo pure, evidentemente tutte quelle zone lì ci arrivo, però non oltre. Invece dove Claudio, su dove lui, quella è una bella zona, perché Claudio da lì arriva dappertutto. Allora io tutte quelle zone che detto le ho fatte anche io, la zona di Isola Rossa, tutta quella zona lì, Costa Paradiso, l'ho fatta tutta, ho parlato con camionisti addirittura, non con stazioni fisse. Praticamente però la zona di Ozieri non l'ho mai copiata, non sono mai riuscito a copiarlo Ozieri. O sì, magari una volta mi sa, ma basso, arrivavo basso, però con l'altra antenna, adesso non so con questa qua se è più performante, ma mi sa di sì, più performante della Game Master senz'altro. L'anno scorso mi ricordo una di sera, era lo stesso, verso l'autunno, era l'autunno scorso, una sera che da Bonotto ho fatto la provinciale che collega Giave, no? E sono 2-3 km, non di più, e sei a Giave, vicino, però sali perché Giave è più in alto di Bonorva, Bonorva è 530 metri, invece Giave è a 580, 585, adesso non ricordo di preciso, e mi sono fermato proprio su, no, dove c'è quella chiesetta di San Cosimo, no? E da lì praticamente sentivo Giulio parlare, e l'unico però che è riuscito ad agganciarmi era Claudio. Claudio riusciva a sentirmi, avevo l'antenna piccola e stavo uscendo con 5 watt solamente in macchina. Da lì ho parlato, da lì sino alla discesa, poi dall'altra parte sulla 131 con Claudio, capito, con la macchina. Sì, Claudio è aperto, specialmente quando abitava al grattacielo, era aperto per quelle zone lì, arrivava anche molto più lontano, Oristano, tutta quella zona lì era libera per lui, vabbè, la grattacielo, non c'è bisogno manco di tubuli, le puoi pulire l'antenna senza tubo, che arrivi a tutte le parti. Anche adesso dove adesso già arriva Claudio tranquillamente, perché lui è vicino praticamente, alle spalle sue c'è diciamo scala di gioco a quella zona lì, capito, alta, sei già fuori, capito, tutto quelle versante lì lo salta lui, perché capito è vicino a quel costone lì, invece da qua sei ancora lontano. Beh, ho capito, vabbè, ma la grattacielo era una bomba, arrivava da tutte le parti lì, c'era tutto libero, capito? Lì. Sì, anche dove abita adesso più o meno, ho capito, dov'è, era una buona zona, però forse risulta più in basso rispetto all'altezza del grattacielo. Non credo, no, guarda che in alto, praticamente tu considera che sali e lui è dove abita lui, è proprio dove c'è l'incrocio della strada nuova di Osilo, no, e quindi lì sei già in alto, sei molto più in alto di Sassari. Vabbè, poi dipende magari dalla zona dove devi arrivare, capito, magari da una parte arrivi meglio, dall'altra arrivi più basso, ma arrivi lo stesso. Secondo le zone, capito? Esatto. E vabbè, non siamo mai contenti, dai, perché anche io non è che già sono messo abbastanza bene qua dove sono, già sono in alto, anche io già arrivo tranquillamente dappertutto ad Alghero, insomma. Piuttosto che c'è meno gente di prima, quindi i collegamenti ne fai di meno qua, almeno nelle zone, nel locale, capito? In passato invece c'era più gente anche nei paesi e quindi agganciavi più persone. Adesso penso che non ci sia quasi nessuno, capito, nei paesini ormai, capito, è tutto morto. E molti se l'hanno venduto, anche molti camionisti se l'hanno venduto prima la sera a quest'ora, tutti i camionisti partivano per andare verso Olbia, c'era Domenico Tarzanetto, tutti gli autisti che partivano per andare per viaggiare e li accompagnavamo, se dove arrivavamo li accompagnavamo, capito? Certo, sì, ma loro stavano soprattutto, mi ricordo, ai miei tempi sul 5, il canale loro era quello, no? Sì, ma Domenico sapeva che sul 10 c'eravamo noi, entrava sempre a salutare e lo accompagnavamo, perché la notte sul 5 non c'era nessuno, la mattina magari sì, ma la notte lui veniva sul 10 perché sapeva che c'eravamo noi, quindi e arrivava bene, mi arrivava forte, c'aveva l'eco, non c'aveva l'eco corto ma l'altro tipo di eco, arrivava abbastanza bene, dai. E poi sarà tutto, l'ho venuto quando stavo lavorando in pescheria io lì nel negozio, è venuto a comprarsi il pesce, gli ho detto bene dove? E dice io ho staccato tutto, sto usando il telefono e basta, non ne sto più usando, e cosa lo usi a fare? Le bongaglietti, cosa? Non ne sta più usando nessuno, ma qui in camion. Infatti chi, insomma, la passione è rimasta a chi in passato aveva conosciuto la radio, la Citizen Band, eccetera. E anche io prima avevo mollato, avevo venduto tutto, non avevo più niente. Però poi, sai, ti basta un attimo e ti ricompri una radio, provi, ti metti l'antenna, inizi e se c'è qualcuno, capito, almeno i vecchi, qualcuno l'ha tenuto. Vabbè, certo. Ma io ci sono una vita, da quando avevo 18 anni, figurati tu. Io lo stesso, più o meno avevo iniziato a quell'età. Poi non avevo mollato del tutto, cioè mi era rimasto un portatile che accendevo ogni domenica. Stavo usando un portatile col booster per le batterie della macchina, lo attaccavo al booster e ho linearetto 747, lo facevo andare con quello lì. E sentivo solo gli anziani della frequenza Gion Maria, la buon'anima di Mario Mao, capito? E un giorno sono entrato così, ho cominciato a parlare, beh, di nuovo appassionato, me l'avevo messo in terrazzo, poi ho messo un'antenna sopra il ferro, sotto il ferro per spendere, e mia moglie mi ha detto lascia perdere, togli l'acqua l'antenna, perché se quella lì su stendere lenzuola lì si aggancia, gli dei buchi li devi anche pagare. E così ho fatto, l'ho tolta e l'ho messa, ho fatto un buco nella ringhiera e l'ho piazzata nella ringhiera con una staffa all'interno e poi la toglievo quando lo so che finivo tutto, ma ogni volta toccava smontare, montare di nuovo e me l'ho rotto le scatole, allora mi ha offeso e ho trovato Natalino, questo me lo ricordo bene, gli ho detto Natalino perché non ripristiniamo la frequenza, cosa ne dici? E lui ha detto io proviamo, che abbiamo chiamato un po' di gente di quelli vecchi e abbiamo ricominciato tutto. Come ti dicevo, giusto i vecchi, perché ormai i giovani non entrano più, ormai l'era del cellulare, capito? E quindi figurati se uno sta lì. Ai tempi nostri non avevamo cellulare, o i primi cellulari sono iniziati intorno all'85 più o meno, ma erano telefonavi, massimo i messaggini mandavano, non ci facevi niente, capito? Adesso con i telefoni fai tutto, quindi i giovani hanno quello e praticamente con quello fanno tutto, comunicano con un contrattino da 5,99, parli per un mese, c'ha internet e loro vanno avanti così, capito? Non hanno, diciamo, lo stimolo da provare queste cose che abbiamo provato noi. Noi le abbiamo provate, quindi anche a distanza di anni poi ti va di riprovarle, capito? Addirittura se vedono l'antenna della macchina si mettono a ridere, la segnano col dito e si mettono a ridere, sono guasti proprio, non sanno manco per quello che servivano le radio, perché prima io nel servizio emergenza radio facevamo prevenzione antincendio, tutte queste cose qua, capito? Segnalavamo per dire incidenti, tutte queste cose qua. Facevamo il giro con la macchina d'estate, più di una volta segnalato incendi io. E per dire servono per tante cose, non è che servono solo per parlare, possono essere utili per diverse cose. E loro non lo sanno, capito? E una volta pure un BD di un'imbarcazione in Corsica che ho sentito, ho chiamato la capitaneria di Porto Torres io. Infatti sì. Sì, molte volte si usava per emergenza, infatti c'erano i canali di emergenza che se non sbaglio sono il 9, il 19, così. E adesso non c'è nessuno. Ah, canale 9 c'era certo l'ascolto della prefettura. Adesso non penso che ci sia più nessuno, non penso perché non lo so di sicuro. Prima c'era certo l'ascolto, capito? La prefettura che ascolta.